Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, buongiorno, siamo arrivati, sono le 11.08, è arrivato il momento di occuparci della nostra salute, del nostro benessere. Abbiamo Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, i nostri esperti ci aspettano già al telefono, ma prima sentiamo i temi del nostro sommario. Dalla punta dell'indice al polso, ispezioniamo la mano. Incontri ravvicinati con i batteri. Se non trovi il fidanzato, lo puoi costruire. Oggi parliamo della mano, è un organo meraviglioso e complesso. Per questo oggi lo perlustreremo con grande attenzione. Analizzeremo i problemi che possono interessare le sue articolazioni, le dita in particolare. A volte sembrano un po' arrugginite o affaticate, dolenti, ma non ci fermeremo qui, perché parleremo anche di eczemi, dermatiti, rossori, screpolature, senza naturalmente trascurare i formicolii, la sensazione di intorpidimento, di perdita di forza. Oggi sono a nostra disposizione due esperti, allora andiamo per ordine. Per prima cosa i contatti. Potete chiamarci come sempre al nostro numero verde, il nostro centralino è già attivo, 800 24 00 24, oppure scriverci un sms al 349 238 6666. In linea con noi abbiamo la professoressa Antonella Tosti, ordinario di clinica dermatologica presso l'Università di Bologna. Bentornata professoressa. Buongiorno a tutti. E in linea con noi il professor Giorgio Paiardi, direttore dell'Istituto di Chirurgia Plastica all'Università degli Studi di Milano e dell'Università operativa di chirurgia della mano al Policlinico Multimedica di Milano. Professor Paiardi, bentornato anche a lei. Buongiorno a voi. Allora, io vi metterei subito al lavoro e vi chiederei di prestarci il vostro occhio clinico. Partirei dalla professoressa Tosti. Aiutiamo i nostri ascoltatori, professoressa, a vederci più chiaro. Come devono osservare le loro mani? Quali sono i segnali sospetti? Allora, spesso ovviamente le mani, essendo a contatto con numerose sostanze nell'ambiente, spesso possono apparire secche, presentare arrossamenti, presentare screpolatura. Quello che è importante è cercare di distinguere quando è necessario rivolgersi al medico, quando quindi è più che una secchezza dovuta al freddo o al contatto con l'acqua, e può trattarsi di una dermatite da contatto, quindi di una forma allergica o irritativa, oppure di una psoriasi, ad esempio, un'altra malattia che spesso colpisce la pelle delle mani. E anche le infezioni fungine, esiste quella che si chiama la tinea manum, che è l'infezione da funghi della pelle della mano. Allora iniziamo dalla dermatite da contatto, sì, che è probabilmente uno dei problemi più frequenti. Ecco. Come si presenta? Diamo qualche indicazione, allora, delle tre situazioni che lei ha descritto. In genere un elemento importante è il prurito, sì. La dermatite da contatto è pruriginosa. Quindi quando c'è prurito bisogna sospettare che ci possa essere un problema di allergia. Può interessare sia il palmo che il dorso della mano, quindi indifferentemente. Sì. Spesso la dermatite a contatto è abbastanza delimitata alle zone del contatto, per cui spesso la malattia non si estende oltre l'avambraccio. Sì, è ben localizzata. È abbastanza ben localizzata. Quindi prurito sul palmo e sul dorso, rossore. E nelle forme croniche anche delle fissurazioni dolorose, quelle che si chiamano ragadi in linguaggio tecnico. Che sono dolorose, appunto. Dolorose, professoressa. Perché la pelle si spessisce, si formano queste fessure che fanno male quando si piega la mano, certo, e quando si utilizza la mano. Professoressa Tosti, lei ha parlato anche di funghi. Diamo qualche indicazione, così i nostri ascoltatori da casa, se si riconoscono, possono chiamare il nostro numero verde 800 24 0024. Sì, le infezioni da funghi fondamentalmente interessano il palmo, quindi è un problema che è localizzato al palmo. C'è meno rossore e c'è soprattutto desquamazione. Quindi questi sono i sintomi da tenere sotto controllo? Da tenere sotto controllo. In genere non c'è una sintomatologia del tipo prurito o bruciore. Abbiamo anche poi a volte un problema di eczema proprio tra le dita delle mani, vero professoressa Tosti? Sì, perché tra le dita delle mani, ovviamente, se il soggetto non asciuga bene le mani, questo è frequente, tutti noi asciughiamo malissimo le mani dopo averle lavate, si forma una macerazione E quindi è una sede dove spesso rimangono, si depositano le sostanze, non so, i componenti del sapone, componenti ambientali, proprio dovute al fatto che le mani non vengono ben sciacquate, ben asciugate. Allora, quindi avete tutti un quadro chiaro dei sintomi per cui magari si rende necessario interpellare il medico. La professoressa Tosti rimane con noi sino alle ore 12, ma abbiamo anche il professor Paiardi, a cui chiedo di farci una sorta di sommario, un po' come ha fatto la professoressa Tosti, dei problemi che possono interessare la nostra mano, le sue articolazioni in modo particolare. Quali sono i temi che vogliamo trattare oggi? Soprattutto io partirei dai sintomi. Ne abbiamo descritti un po' in apertura: una sensazione di perdita delle forze, il formicolio, le dita che sembrano un po' arrugginite. Ma professor Paiardi, è lei l'esperto. Buongiorno anzitutto. Direi che potremmo trattare quelle patologie che sono diciamo al confine con la dermatologia, o quantomeno che possono avere un riscontro visivo a livello cutaneo e talvolta del tutto autonomamente, ma possono dare l'impressione al paziente di dire: ma mi rivolgo al dermatologo o mi rivolgo al chirurgo della mano. Per esempio, classico il morbo di Dupuytren, sì, che è una patologia che consiste in una retrazione nodosa del palmo della mano, e talvolta, soprattutto nel paziente che ha un'attività sportiva, viene il dubbio che non sia meramente una callosità, e allora allunga il giro passando prima dal collega dermatologo. E poi vi sono altre situazioni, lei ne accennava prima, assai frequentemente quando ci sono delle irritazioni di tronchi nervosi, il paziente avverte soggettivamente una sintomatologia tipo formicolio, indebolimento della mano, e nelle forme un po' più avanzate questo ha un riscontro cutaneo. Riscontro cutaneo perché diminuisce la sudorazione e la pelle appare più secca. Basti dire che una volta, e per una volta intendo quando ho cominciato io il mio mestiere, quindi non proprio tantissimi anni fa, le elettromiografie non esistevano, e allora con il mio maestro, con il professor Morelli, si faceva un test molto semplice, cioè si spruzzava una sostanza che vasodilatava la circolazione a livello dei polpastrelli, si appoggiava la mano su una carta assorbente. Dove rimanevano le impronte il nervo funzionava, dove non rimanevano il nervo non funzionava. Bravi. Quindi, però ancora geniale. Quando CSI non c'era, insomma, sì, la televisione, c'erano questi test estremamente empirici, solo che una cute quindi a questo punto secca può essere un po' al confine tra un trattamento locale dermatologico, sulla quale sicuramente ci intratterrà la collega poi, ma a monte vedere laddove possibile di risolvere il problema che l'ha causato. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde per intervenire. Le mani le utilizziamo in continuazione, le mani anche comunicano, e ci viene naturale in fondo parlare con le mani, ma ci siamo mai chiesti perché soprattutto noi italiani gesticoliamo? Giro la domanda al professor Diego Centonze. Buongiorno e ben ritrovato, professore. Buongiorno, ben ritrovata a lei. Ricercatore di neurologia presso l'Università Tor Vergata di Roma e di neuroscienze presso la Fondazione Santa Lucia di Roma. Insomma, tante volte i gesti sottolineano quello che le parole non riusciamo a esprimere, professore. Sì, queste piccole appendici che sono le nostre mani hanno in realtà a livello del cervello delle rappresentazioni ben più estese, e questo non soltanto perché ovviamente i movimenti fini di prensione e di manipolazione richiedono delle competenze particolari, ma soprattutto perché le mani sono coinvolte, come lei ha ben detto, in funzioni che vanno molto, molto al di là della loro attività di prensione e di manipolazione, e precisamente sono importantissime per il linguaggio. Sì. A volte lo assistono, a volte addirittura lo sostituiscono, come nel caso del sordomutismo, e a volte lo arricchiscono con dei significati che a volte sfuggono allo stesso parlante. Anche da un punto di vista neurologico è interessante notare come la corteccia, l'area cerebrale deputata al controllo del linguaggio, si sviluppi da una corteccia di animali inferiori inizialmente deputata unicamente al controllo delle mani e soprattutto all'utilizzo delle mani a fini simbolici, quindi all'utilizzo delle mani per produrre gesti, che sono appunto la modalità con cui le mani entrano in contatto comunicativo con l'ambiente. Ci sono delle patologie molto interessanti in cui questa capacità di compiere gesti viene alterata in maniera molto selettiva. Allora noi vediamo dei pazienti che hanno il perfetto controllo motorio delle loro mani, ma non sono in grado di comunicare attraverso le loro mani dei significati più semplici, come un saluto, come fare il segno di un bacio, come fare l'occhiolino, come addirittura fare il soldato militare. Quindi tutti i segnali linguistici ormai codificati nella nostra cultura, che vengono completamente persi per delle lesioni cerebrali. Questo ci dice appunto come le mani forse in maniera provocatoria possiamo dire che lo scopo principale delle mani è quello del linguaggio, è proprio quello di permetterci di entrare in comunicazione con l'altro ancora prima e forse ancora più efficacemente di quanto non faccia la parola parlata. Professor Centonzi, io la ringrazio perché per tanti di noi che usano le mani, gesticolano, io gesticolo molto, mi rendo conto, me lo dicono, abbiamo capito qualche cosa in più, no, di questi nostri gesti. Siamo partiti dal cervello, la spiegazione c'è. Professor Centonzi, lei gesticola parecchio? Sì, mi capita. Si aiuta. Provengo da una regione meridionale dove è molto frequente l'assistenza al linguaggio attraverso la gesticolazione, sì. Allora, un saluto al professor Centonzi, grazie per essere stato con noi. Il professor Paiardi, la professoressa Tosti rimangono a vostra disposizione per qualunque problema avvertiate a livello della mano, dal formicolio all'eczema, alla sensazione di intorpidimento, anche se le vostre dita non si flettono nel modo corretto, avete difficoltà ad afferrare ad esempio gli oggetti, 824-0024, questo è il nostro numero verde. I messaggi 349-238-6666. Una mela al giorno. Magda, dove state andando? Ben, porto i bambini al gabinetto. Ma allora io parlo al vento. Perché? Allora te lo ripeto per l'850esima volta. I bar e i bagni pubblici sono i distributori automatici della salmonellosi e del tifo, d'accordo? Allora, introduciamo l'argomento di oggi insieme grazie al film di Carlo Verdone, Bianco, Rosso e Verdone. Parliamo di batteri, incontri ravvicinati, ma non sono solo i bagni pubblici che ci fanno incontrare questi batteri. Le occasioni sono diverse, ne parliamo insieme al professor Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Buongiorno professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno, purtroppo i batteri sono una presenza costante nella nostra vita, nell'ambiente con cui abbiamo ovviamente ogni giorno a che fare. Senta professore, siamo partiti dai bagni pubblici, ma da uno studio di qualche anno fa, dell'anno scorso, condotto in Inghilterra, i ricercatori hanno riscontrato più germi sulla tastiera del computer che sulla tavoletta del water. Assolutamente sì, in oggetti d'uso comune, vuoi la tastiera magari di un internet point piuttosto che il telefono d'uso comune, la maniglia del tram, ma peggio ancora, abbiamo visto valori di concentrazione elevatissimi per esempio sui carrelli della spesa dei supermercati, si arriva ad avere presenze di contaminazione batterica piuttosto rilevante, per cui tutto questo ci deve far ricordare quelle che sono norme di buon senso, tra cui quella di lavarsi frequentemente le mani in modo adeguato, quindi non con gli aspetti magari una sciacquata rapidissima con acqua e via, ma con un grande uso di acqua e possibilmente soprattutto di sapone, perché è quello che è fondamentale, quindi è il buon senso delle nonne, perché le mani sono poi il veicolo intermedio di trasmissione di queste patologie e sono tante, 8-10 mila casi solo di salmonellosi all'anno in Italia. Mi scrive Matteo se l'influenza e il raffreddore si prendono anche dalle mani, mettendo le mani in bocca. È corretto perché è dimostrato che una quota rilevante delle infezioni arrivano sì per via diretta, cioè per le goccioline che noi ci respiriamo l'un l'altro e che nel momento in cui c'è un paziente malato possono avere questa cosa, ma anche e soprattutto in particolare per quanto riguarda raffreddore e altre infezioni respiratorie per il passaggio intermedio, perché questi batteri, in particolare questi virus influenzali, simili influenzali, sopravvivono alcuni minuti nell'ambiente e noi toccando oggetti contaminati è da lì che arriviamo ad avere la malattia. Anna ci scrive: i batteri quindi si possono passare attraverso una stretta di mano, proprio oggi che parliamo di mano, professor Pregliasco? Sì, assolutamente sì, le mani sono la via principale. Situazioni a rischio, per esempio l'happy hour con tutte quelle prelibatezze magari poco diciamo anche non corrette dal punto di vista nutrizionale ma soprattutto igienico, sono un rischio notevole, soprattutto proprio per il passaggio di più persone, perché tutti pescano patatine, olive con le mani. Quindi, professore, questo suo accenno all'happy hour, a tutte queste prelibatezze che si pescano direttamente con le mani, ha sotto sotto un invito a evitarle? Un'attenzione nell'aspetto procedurale, che dovrebbe essere un'indicazione tecnica degli albergatori, dei ristoratori, su modalità che riducano questa contaminazione. Anche solo lasciare aperti, libero il prodotto è un rischio di per sé, peggio ancora non avere un sistema appunto che utilizzi forchette, coltelli o altri strumenti utili. E poi soprattutto un'igiene della persona, perché ribadisco, l'aspetto del lavaggio delle mani è fondamentale e determinante. E la professoressa Tosti ci ha ricordato anche proprio in apertura di asciugarle poi adeguatamente. Professor Pregliasco, io la ringrazio per essere stato con noi, ci sentiremo presto perché ormai l'influenza è alle porte. Ricordiamo, quindi siamo nel momento giusto per vaccinarsi. Tutte le persone a rischio possono rivolgersi al proprio medico di famiglia, sostanzialmente in tutta Italia, per poter avere gratuitamente la vaccinazione. Vaccinatevi perché è il momento giusto. Grazie professor Pregliasco, ci sentiremo presto. Buona giornata. A voi, a tutti. Pronto soccorso. Insomma, qua la mano, oggi lei è la protagonista della nostra puntata, in linea con noi due esperti, il professor Pagliardi, ortopedico e specialista della mano, di cui possiamo approfittare per tutti i problemi inerenti al funzionamento della nostra mano, quindi se le articolazioni delle vostre dita vi paiono gonfie, se avvertite indolenzimento, se fate fatica ad afferrare un oggetto, a portare la borsa della spesa, 800 24 00 24. Ma abbiamo insieme a noi anche la professoressa Tosti, osserveremo, lei ci ha dato già delle indicazioni importanti, l'aspetto delle nostre mani che specie in questo periodo dell'anno si arrossano, si screpolano, anche tra le dita abbiamo visto possono comparire gli eczemi, ma ci sono anche i funghi. Messaggi 349 238 6666, ne leggo perché ne sono già arrivati parecchi. Maria da Venezia ci scrive: i palmi delle mani si squamano, potrebbe essere una reazione allergica ai detersivi? Professoressa Tosti, in parte lei l'ha già accennato, ma diamo qualche indicazione più mirata. C'è da dire che i detersivi a volte danno solo reazioni di tipo irritativo e non necessariamente allergico. Comunque la cosa giusta da fare è effettuare i test allergologici. Questi test si chiamano i patch test o test epicutanei. Questi test sono essenziali per discriminare le forme irritative dalle forme allergiche. Lui, mi dica professoressa. Sono anche presidente della Società Italiana di Dermatologia Allergologica e Professionale, che è una società molto attiva, e in tutta Italia noi abbiamo dei centri dove possono essere effettuati questi test nel modo più corretto. Bene, questa è una buona indicazione. Andiamo a Ferrara, ci scrive Luigi. Quando mi alzo alla mattina ho le dita rigide, sino a quando non le metto un po' sotto l'acqua calda. Faccio bene e cosa può essere? Professor Pagliardi, se la sente di rispondere? Ci proviamo. Allora, diciamo che in genere la reazione al caldo freddo è molto soggettiva. Sì. È un dato di fatto che un po' di acqua calda crea un po' di tepore e fa superare qualche disturbo di qualsiasi natura esse sia. L'indicazione è che non sia troppo calda, non solo per la considerazione banale che non bisogna scottarsi, ma perché in realtà il caldo aumenta la circolazione, l'aumento della circolazione aumenta il gonfiore, per cui una volta passato il beneficio transitorio termico c'è un effetto rimane rebound, un po' il gonfiore. Diciamo che un po' di irrigidimento, un po' di formicolio o di ruggine, diceva lei in apertura della trasmissione, a livello della mano può essere un fatto del tutto occasionale legato o a un affaticamento lavorativo, sportivo, transitorio o per una cattiva posizione durante la notte. In realtà la notte per la mano spesso non è un momento di riposo, ma è un momento di lavoro per le storture a cui viene sottoposta, soprattutto dai più agitati o dei più abitué in certe posizioni, tipo posizione fetale o d'altro, ed è per questo che noi spesso lavoriamo con una correzione nelle ore notturne con i tutori di posizione più che nelle ore diurne. Quindi la notte è un periodo a rischio per le nostre mani, io non ci avrei mai pensato, in effetti è un periodo ha che ragione. Possiamo girare a nostro favore, perché tanto le mani non le utilizziamo. Sì. Le faccio un esempio, abbiamo già avuto modo di accennare in altri momenti all'artrosi trapezio metacarpica, quindi l'artrosi della base del pollice. Sì. Che crea tanti problemi di indebolimento, di dolore, di presa. Ora, un tutore che sia correttamente eseguito, quindi fatto apposta da un fisioterapista o da un terapista occupazionale della mano e non preconfezionato, improvvisato, certo. Ma soprattutto che sia messo rigorosamente la notte. Mm. Il tutore messo di giorno è un non senso, perché di giorno la mano ci ha serve, bisogno di muoversi, deve essere, viene mossa continuamente, quindi qualche posizione alterata o dolente viene mantenuta per pochi secondi, a volte quindi meglio agire di notte perché la nostra mano possa riposarsi. E siamo tornati insieme per occuparci della nostra mano. Do subito la parola ad Elsa che ci chiama da Palermo. Elsa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Io volevo parlare con la professoressa Tosti, se sì. possibile, sì. perché da circa un mesetto mi sono spuntate delle macchie biancastre, secche, asciuttissime, però proprio come uno sfaldamento sui polpastrelli, alcuni polpastrelli della mano sia destra che sinistra. Mm. E vorrei sapere che cos'è. Premetto che non adopero molti detersivi, ho un sospetto che mi è venuto proprio adesso sentendo la trasmissione, siccome io gioco molto a carte, sì. potrebbe darsi che le carte che vengono maneggiate da tutti sì. possano procurarmi questa... Elsa, ma che gioco di carte gioca? Gioco a bridge. Gioca a bridge. Allora, professoressa Tosti, una bridgista. No, io non penso che possa trattarsi di un problema infettivo. Mm. Qualcosa di localizzato ai polpastrelli può essere o di natura traumatica, quindi microtraumi, e vedere in questo modo il gioco delle carte, oppure bisogna pensare a quest'altra patologia che si chiama disidrosi, sì. in cui in pratica si formano delle piccole bollicine al di sotto dello strato corneo, che a livello delle mani è più spesso, quindi possono non essere ben visibili e possono apparire come appunto delle macchiette biancastre, come dice sì. la signora. E questo è un disordine probabilmente in parte della sudorazione e quindi è un disordine che compare nei mesi più caldi e che può a volte dare un pochettino anche di prurito. Un consiglio quindi per Elsa da Palermo: puoi utilizzare ad esempio delle creme emollienti? La butto lì. Utilizzare delle creme emollienti, di nuovo controllare comunque le prove allergiche, perché a volte questa disidrosi è comunque correlata a un'allergia ai metalli, al nickel. Che è una delle cause più comuni, più frequenti, è vero. Andrei alla provincia di Milano, ci chiama Tina. Tina, buongiorno e benvenuta. Buongiorno dottoressa Carboni. Pronto? Sì, la sì. sento, sono ecco, qua. Ecco, il problema della mano destra che uso moltissimo, quindi io penso usura, insomma. Sì. Ecco. Perché la usa tanto? Sì, perché? Perché io sono un amante del fai da te sì. da anni, da sempre. Ecco. E anche brava Tina? Sì, abbastanza. Se la cava. Nel campo della moda, un po' tutto nel giardinaggio, e quindi io sono quella che dice, vabbè, se lo sa fare quello, perché non lo posso fare io? E quindi, insomma, diciamo che ho approfittato un po' troppo, forse. No, brava Tina, però mi piace questa cosa, se lo sa fare lui posso saperlo. Ecco, mi piace, questo sì, mi piace Tina, però esatto. la sua mano è un po' faticata. Sì, esatto. Che ecco, cosa diciamo, prova? Ho fatto tanto fai da te, forse più nel passato, magari, non so, nel campo dell'antiquariato, sverniciato mobili, mi dava, insomma, facevo di tutto. E adesso? Ora, e adesso sento che la mano, quando la uso un po', insomma, anche per lavori di casa, eccetera, è stanca. E infiammata, io penso, perché trovo beneficio a metterla sotto l'acqua del rubinetto, a metterla sotto il rubinetto con l'acqua fresca. Vede. Ora vorrei capire a che cosa vado incontro e che cosa, per esempio, usando il mouse col computer, ecco, dopo un po' la mano è morta. La mano è morta. La mano morta è un'altra cosa, però, Tina, si dice, c'è anche un detto, non far la mano morta. Professor Paiardi, lei il detto lo conosce? Sì, anche se nel nostro campo la mano morta è una cosa assai più grave, quindi sì. Meglio per il detto. Meglio per il detto, per questo sottolineavo il detto, ma Tina ha questa mano che è affaticata, forse per un super lavoro, ma quali sono i segnali che Tina deve tenere sott'occhio e che cosa può fare? Anche lei con l'acqua, insomma, o caldo, fredda, allevia. Come mai, professore? Allora, partiamo dal fondo. Diciamo che una delle terapie fisiche, distinguiamo, la fisioterapia è quella che chiamiamo movimento assistito dal terapista o meno, le terapie fisiche sono le cosiddette macchine e quindi la TECAR o le onde d'urto in tempi più recenti, gli ultrasuoni e le ionoforesi in tempi più antichi. Sì. Ora, la ginnastica motoria su base acqua calda, acqua fredda è la più gratuita e la più vecchia che esista, quindi il modificarsi dal caldo al freddo, la cosiddetta ginnastica vascolare, rappresenta uno degli strumenti più antichi, ripeto, disponibili e buon mercato a disposizione di tutti, perché proprio è la variazione in quanto tale che è terapeutico, indipendentemente dal fatto che poi prevalga il freddo o prevalga il caldo. Rispondendo al problema a monte, direi che è abitudine nostra, penso di tutti e in tutte le fasi della vita, in qualsiasi cosa facciamo, cercare sempre un capro espiatorio. Quindi se noi facciamo un certo tipo di lavoro è colpa di quello, se abbiamo un problema, abbiamo sentito prima, è colpa delle carte, l'ho usata troppo, e questo da un lato ci dà un alibi, poi ci dà anche un minimo di grado di gratificazione emotiva, perché in fondo, come dire, ci sembra di avere ben vissuto, sì, ma in realtà non c'entra minimamente il problema. È un po' come andare dal dentista immaginando che il dente che fa male sia quello che magari è un po' scurito, sì, per problemi suoi. Allora, diciamo che le mani sono fatte per funzionare e si ammalano assai di più quando stanno ferme rispetto a quando si muovono. Abbiamo sentito prima il professor Gentone parlare di espressività in rapporto al fatto di una scarsa espressività perché c'è una paralisi o perché c'è un'alterazione che lo impedisce. Quindi la mano che gesticola, la mano che comunica, la mano che lavora svolge pienamente le sue funzioni, il suo ruolo. Certo. È vero che noi, quindi non c'entra il mouse, non c'entra il giardinaggio, a volte noi utilizziamo la mano in modo non del tutto adeguato, con degli strumenti non del tutto adeguati, e da questo punto di vista è assai più rischioso l'hobby, il fai da te o lo sport, che non il lavoro, perché nel lavoro, grazie a quanto fatto da l'INAIL, dall'industria in 40 anni a questa parte, esiste la cosiddetta ergonomia, quindi gli strumenti sono studiati nelle loro dimensioni, nelle loro proporzioni, nella loro posizione, in modo da creare meno problemi possibili. Va da sé che quando noi ci troviamo nel weekend a fare il giardinaggio, spesso invece con la forbice invece che col forbicione, quindi lavora, siamo noi che utilizziamo, esatto, a volte degli strumenti che sforzano le nostre articolazioni e che poi naturalmente ne paghiamo un po' le conseguenze. E poi siamo comunque poco allenati, per cui non essendo il nostro mestiere magari concentriamo in una giornata un affaticamento che nel resto della settimana svolgiamo sì e no per un decimo. Quindi l'invito può essere, nel momento in cui si vede che il disagio è sempre correlato da un momento di super lavoro, a essere più attenta nell'utilizzare gli strumenti, magari facendosi anche consigliare da un fisioterapista, certo, un'impugnatura piuttosto che un'altra, di una forbice, per fare l'esempio. Questo, di prima, professor Paiardi, vale per tutti, vero? Sì, assolutamente. Ecco, questo è un consiglio. È il migliore modo di prevenire. È il migliore modo di prevenire. Abbiamo tempo, prima di andare a sentire il traffico, di salutare e ascoltare la domanda di Anna da Milano, 824 0024. Anna, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. La mia domanda è questa. Io ho cominciato durante la gravidanza della seconda figlia 3 anni fa di notte ad avere formicolio e il braccio destro che si addormentava. Sì. Mi era stato detto che dopo la gravidanza sarebbe tornato tutto, sì. E invece mi è rimasto, si è ridotto al medio della mano destra, al dito medio, però costantemente di notte mi si addormenta e sento formicolio. E l'altra situazione in cui si verifica molto spesso è quando uso il mouse. Ok, Anna, professor Paiardi, formicolio, il dito medio è un più soggetto a questo formicolio. Ecco, siamo tornati veloci, prima di rispondere alla nostra ascoltatrice, al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro dal titolo Yoga per l'ufficio, 30 esercizi in giacca e cravatta. Per partecipare all'iniziativa dovete mandarci un'email all'indirizzo esserebenessere@radio24 con il titolo Yoga per l'ufficio, i vostri recapiti e il numero di telefono. Naturalmente il libro arriva a casa al primo ascoltatore, a quello più rapido, insomma. In collaborazione con IBS.it. A proposito di ufficio, domani avremo modo di consultare i nostri esperti per capire se e in che misura il lavoro può favorire o aggravare eventuali disturbi, per cui ci chiederemo se il lavoro nobilita o debilita. Se avete delle storie e dei dubbi potete iniziare a scriverci, leggeremo, vi contatteremo durante la trasmissione. Essere benessere @radio24.it. Professor Paiardi, ci eravamo lasciati al formicolio, vogliamo dare qualche indicazione, perché le telefonate sono davvero tante, volevo lasciare un po' spazio anche ai nostri ascoltatori. Allora, sembra una battuta, ma le assicuro che così non è. Io ho operato questa mattina una signora durante la gravidanza per questa patologia. Sì. È una sindrome del canale carpale, come tale una patologia estremamente diffusa e in corso di gravidanza può o inasprirsi per via della ritenzione idrica quando sia preesistente, oppure, come mi pare di capire dall'ascoltatrice, scatenarsi ex novo, cioè la paziente proprio non aveva nulla. Allora, nel primo caso, quando purtroppo c'è una gravidanza e il paziente non abbia curato prima la patologia, i disturbi diventano talmente intollerabili che sono gli stessi ginecologi che ci chiedono di trattare la paziente in modo da non avere una mamma arrabbiata e un bimbo un po' isterico, insomma. Sì. Quando invece l'insorgenza sia durante la gravidanza, vuol dire che è un fatto occasionale e quindi un corretto tutore notturno senza l'ausilio di nessun farmaco risolve il problema fino a vederlo poi scemare fisiologicamente col termine dell'allattamento. Andiamo a Como, ci chiama Beppe. Buongiorno Beppe. Buongiorno. La sua domanda chi la rivolge? La rivolgo al dermatologo. Alla professoressa Tosti. Bene, sì. Beppe, andiamo. Mi è emerso un eczema nel palmo della mano, in due zone precise vicino al pollice e anche sulla parte del pollice che è all'interno della mano e su un altro dito. Sono andato dalla mia dottoressa di famiglia, mi ha detto che è un eczema e che può essere dovuto al fatto di aver usato dei liquidi, perché ultimamente ho usato, che so, per esempio per un mobile, contro i tardi, un liquido contro i tardi. Sì. Può darsi che usano il Può darsi, come diceva il professor Paiardi, cerchiamo sempre un po' il responsabile, la colpa, ma forse in questo caso Beppe ci ha preso. Professore Satosti, che cosa dice? Sì, bisogna tenere presente che appunto molti composti hanno delle proprietà irritanti, quindi già il foglietto illustrativo ad esempio indica l'uso, la necessità dell'uso dei guanti per evitare appunto un danno di tipo irritativo, che è diverso dal danno allergico. Il vantaggio è che se il problema è solo irritativo guarisce con una crema magari cortisonica in poco tempo. Se viceversa è un'allergia, il problema si riproporrà in futuro. Però un composto antitardo mi sembra più facilmente causa di un fatto irritativo. Ecco. Certo. Andiamo a sentire che cosa ci racconta Corrado. Ci chiama da Viterbo, 824 0024. Corrado, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi innanzitutto in studio. Io sono affetto da una eperidrosi palmare e volevo conoscere per quanto possibile le cause e i rimedi promettendo che questo fenomeno si verifica di più nella stagione estiva, certo, ma comunque anche l'inverno. Anche nell'inverno la sudorazione delle sue mani non la lascia tranquillo. Professoressa Tosti. Allora, ci sono delle l'idrosi è un problema importante perché crea ovviamente anche dei disturbi relazionali. È fondamentalmente la causa risiede nell'innervazione delle ghiandole sudoripare e quindi spesso l'ansia o lo stress peggiora il problema. Oggi con la tossina botulinica si è fatto un grande passo avanti per il trattamento di questo tipo di patologie, quindi io consiglierei sicuramente il signore di rivolgersi a un neurologo, perché per legge in Italia questo è un trattamento che è riservato agli specialisti in neurologia per effettuare delle infiltrazioni con la tossina botulinica che per diciamo un periodo almeno quanto dura professoressa Tosti l'effetto? Almeno sei mesi. Ma l'effetto è così importante che le persone che hanno davvero il problema non hanno nessuna esitazione a sottoporsi di nuovo al trattamento. Volevo fare una domanda, me la suggerisce Piero, al professor Paiardi. È possibile che l'uso intensivo del cellulare, soprattutto per SMS, favorisca l'artrosi del pollice? Non la favorisce, la evidenzia. La evidenzia. Lei tenga conto che naturalmente in pieno accordo con le indicazioni che vengono dai addetti alla vita sociale, a partire dalla socializzazione del bambino, però noi siamo decisamente dei fautori sotto profilo riabilitativo all'utilizzo di PlayStation, cellulare, per una riabilitazione spontanea e, mi passi il termine, spensierata. È ovvio che questo deve avvenire, parlavamo prima di ergonomia, di terapia occupazionale, in modo adeguato. Certo. Se il cellulare è piccolo, i tasti sono piccoli e facciamo tutto con una mano, la posizione del pollice non sarà adeguata. Se invece siamo sulla poltrona di casa o in auto, ma rigorosamente col semaforo rosso e fermi, sì, e abbiamo il nostro cellulare in pieno palmo e muoviamo il pollice, questa è una ginnastica. Nel momento in cui compiendo un gesto del genere avvertiamo la stessa sintomatologia che sentiamo quando apriamo la porta blindata di casa o quando apriamo una bottiglia, allora a questo punto evidenzia non più un fastidio meramente transitorio, ma un affaticamento o addirittura un'iniziale artrosi della oramai famosa trapezia metacarpica di cui parlavamo prima. Io saluto il professor Paiardi. Una domanda secca, mi arriva da molti SMS. Schioccare le dita fa male o fa bene? No, è indifferente, però forse i gesti inutili è meglio tralasciare. È un po' fastidioso per chi ce l'ha davanti. Professoressa Tosti, grazie anche a lei per essere stata con noi. Ci sentiamo presto. Arrivederci. E prima di salutarci, trovare l'anima gemella non è poi così semplice, ma noi vi diamo un piccolo consiglio pratico sperando serva. Vi lascio quindi all'ascolto di questo breve brano tratto da Il grano e la zizzania di Matteo Rampin. Intanto io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. In effetti non si trova la persona giusta, nessuno la trova. Si trovano persone momentaneamente giuste. E da lì in poi si costruiscono relazioni giuste che funzionano o non giuste che non funzionano. La chiave dunque è rinunciare all'idea che il partner giusto esista là fuori e che il problema consista nel fatto che non lo troviamo. La vita di coppia va gestita sapendo in partenza che è necessario modularla, adattarsi, lottare, ingegnarsi e persino faticare. Non è di moda dirlo, eppure l'effetto di questo modo di vedere la questione è estremamente incoraggiante, toglie l'illusione e conferisce un grande senso di leggerezza. Finalmente, dicono molti, non ho più l'impressione di essere io la persona sbagliata. Finalmente so che non dipende da me. Ed è proprio così, perché siamo tutti la persona sbagliata e non dipende solo dal nostro interlocutore, ma dipende da tutti e due i partner fare sì che la coppia funzioni. L'obiettivo irraggiungibile spaventa sempre, perché sotto sotto una vocina ci dice che non lo raggiungeremo mai. Se consideriamo le cose da questa prospettiva, meno poetica forse, avremo maggiori speranze di vivere una vita di coppia migliore. Insomma, non si trova il partner giusto, lo si costruisce.